Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, grazie per essere con noi. Sono le 11.07, gravidanza, i 9 mesi che cambiano la vita. Puntata oggi dedicata alle mamme, le mamme di oggi, di ieri, le mamme di domani. Oggi vorrei provare insieme a voi a cercare le parole per scrivere e anche riscrivere questo momento così importante della nostra vita. Alcune di noi lo stanno vivendo, altre devono, come me, andare un po' indietro nel tempo, ma credo che fermarsi a riflettere su questa esperienza che ci ha reso nuove, diverse, altro rispetto a prima, possa comunque fare bene a noi mamme, ai nostri compagni, ai papà, che invito sin d'ora ad intervenire in diretta. Parleremo anche di loro e con loro, soprattutto per raccontarci un po' come hanno reagito alla notizia, come hanno vissuto i 9 mesi di attesa accanto alla mamma del loro bambino. Forse, dico forse, più o meno così. Sono incinta. In realtà poi io c'avevo una paura molto semplice, proprio da c'era una volta al West, cioè che niente sarebbe mai più stato come prima, no? Le sensazioni sono state leggere per i primi 9 mesi, anche se devo dire partecipe nel tutta la gestazione, con il rapporto col pancino e a sapere che c'è una creatura all'interno, con svariate analisi, e te c'era prassi normale e comune. 9 mesi sembravano a quel punto un tempo veramente interminabile. Essere incinta non è facile, no? Sentire che io, per me era facile e per lei no. All'inizio vomitava sempre, mi sembrava straordinario, perché da lì è nata una cosa che poi la nascita di Eva ha confermato: la selvatichezza dell'essere umano. Mi ricordo che stavamo in macchina e improvvisamente aprivamo lo sportello e lei vomitava, oppure uscivamo fuori, e mi sembrava straordinaria questa cosa. E quindi all'inizio c'era tutta questa ansia di ma quando cresce questa pancia, quando viene. In realtà già c'era la pancia e stava dentro. Questo è un estratto dal film Sono incinta di Fabiana Sargentini. Intanto io aspetto così un po' i vostri racconti, le vostre riflessioni, le vostre storie. Invito le mamme e i papà di ieri e di oggi all'824 0024, questo è il nostro numero verde. In redazione c'è Laura Vanossi e abbiamo anche un papà in regia alla parte tecnica, e anche lui papà di bambini, ma non ci racconterà, ci guiderà nel corso della trasmissione. In linea invece ho un papà che voi conoscete, è Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Alessandro, benvenuto, ciao. Ciao, ma che bel tema. Senti Alessandro, nella pancia del papà, cito il titolo di un libro, un grande successo di Alberto Pellai, per darti il là ed invitarti a raccontarci come l'hai vissuta tu, la gravidanza. L'ho vissuta veramente con la pancia. Sì, da incinto, anche tu. Incinto, io da subito sono incinto e partecipo con tutte le mie forze, anche fisiche, arrivo addirittura a spingere in quel momento, mentre mia moglie spinge. Partecipo a questo grandissimo miracolo a cui non bisogna sottrarsi in nessun momento come papà. Vi raccomando, partecipate al momento del parto, perché è un privilegio impagabile. E state accanto, scusami Alessandro, sì? Quando ti è stata comunicata la notizia, come, che cosa hai fatto? Ma dunque, la prima volta ti sei sentito subito con la pancia? Prima volta molto sgomento e felicità nello stesso tempo, una specie di implosione, mi mancava l'aria, non riuscivo a parlare. La seconda volta uguale. Sì. La terza volta, perché sto aspettando una bimba che arriva a giugno, ancora peggio forse, anche perché poi la notizia era femmina, io ho due maschi, per cui papà, insomma, le femmine, almeno per me, è una grande notizia. Senti, siamo contenti di condividerla con te. Senti, adesso resta papà naturalmente, ma torna vice caporedattore di Star Bene. Nel numero in edicola parlate anche voi di gravidanza e devo dire vi portate un po' avanti rispetto al momento che trattiamo noi oggi, perché voi siete già al dopo, come mantenersi in forma. Sì, perché la gravidanza è bellissima, è un miracolo, è tutto bello, però molto spesso le mamme si chiedono: ma io come sarò dopo, cioè come faccio a tornare in forma, perché insomma è una bella trasformazione. Allora su questo numero abbiamo dedicato un servizio dove si parla di dieta dopo la gravidanza, di fitness dopo la gravidanza, Quindi se lo vuoi anche emotività. Quindi lo consigliamo alle mamme che hanno già avuto un bambino, subito nel numero in edicola di Star Bene per tornare in forma. Alessandro, intanto noi seguiremo un po' anche noi la tua pancia, perché ci torni a trovare tutti i mesi, e quindi dedicheremo un po' uno spazio a questo. Le trasformazioni, perché crescono, i bambini crescono nella pancia della mamma, ma anche nella mente, nel cuore della coppia. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Aspettiamo notizie. Un abbraccio a tutti i papà. Grazie anche alle mamme. Io in questo momento tifo anche per i papà. Va bene, allora noi invitiamo comunque, grazie Alessandro, le mamme e i papà a intervenire all'824 0024 per raccontare la gravidanza, soprattutto anche se avete un dubbio, un problema, avete bisogno di un consiglio, chiamateci, perché in linea con noi abbiamo la professoressa Irene Cettin, che è primario del reparto di ginecologia all'ospedale Sacco, Università di Milano. Professoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Abbiamo in linea la dottoressa Maria Sacca, psicoterapeuta e sessuologa. Bentornata. È un piacere sempre stare con voi. Allora, due esperte, care amiche, che ci aiuteranno a parlare e a capire il cambiamento che si verifica in questi 9 mesi a livello del corpo, del cuore e della mente. Ma intanto direi, facciamocelo raccontare dalla viva voce delle nostre mamme. Ne abbiamo a disposizione 3. Una, devo dire, ce l'ho qua davanti, Alessandra. Buongiorno, benvenuta. Grazie per avermi invitata. Mamma in attesa di quanti mamma mesi? Mamma in attesa di una bimba di 5 mesi. Con un'altra bimba, Giulia, che ne ha solo 11 compiuti ieri. Quindi vicine vicine saranno. Quindi vicine vicine, sì. Abbiamo in linea con noi anche Valeria. Benvenuta Valeria, mamma Buongiorno. Di... Buongiorno. Mamma di? Mamma di Anna Sofia. E aspetto un'altra bimba anch'io, che si chiamerà Giorgia, e sono incinta di 7 mesi. 7 mesi. E andiamo anche a Yolanda, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Yolanda, tu sei insomma quasi a termine. Io sì, praticamente sì, sono in attesa, sono in trepidazione, perché da un momento all'altro potrebbe verificarsi l'inevitabile, diciamo. Senti, se senti qualche problemino, dolorino, eccetera, abbiamo subito in linea la professoressa Cettin, non allarmarti, chiedi. Certo. Allora, io volevo chiedere però prima a voi, come avete comunicato al vostro compagno, al vostro marito, di essere in attesa di un bambino, e soprattutto come ha reagito lui? Vi ricordate, che so, una sua faccia, un suo silenzio? Una frase, Alessandra. La prima volta devo dire che è stata abbastanza preparata, nel senso che io l'ho scoperto e allora ho trovato una modalità carina. Ho preparato un pacchetto con all'interno il classico ciuccio e l'ho lasciato sul piatto prima della cena, e quando l'ha aperto ho visto un po' il lampo dello sgomento, come diceva prima il direttore di Star Bene, negli occhi. È seguito un lungo silenzio, perché poi credo che insomma l'impatto con questa novità sia soprattutto per un uomo che la vive, ma di riflesso sostanzialmente, almeno per i primi 9 mesi, sia non facile. Poi chiaramente si comincia a chiacchierare, a parlare e si va. E per la seconda, così la vicina seconda, rispetto così alla vicina. Prima lui era fresco, sapeva già come comportarsi. Sì, però pensava fosse uno scherzo, sinceramente. Ha pensato fosse insomma un po' una presa in giro, perché non si aspettava minimamente invece a breve distanza. Poi sarà circondato da tre donne. Valeria, tuo marito come ha reagito? Guarda, noi il test l'abbiamo fatto insieme, quindi diciamo che ai primi segnali abbiamo fatto il test, e quello che mi ricordo, devo dire, è stato il suo sguardo, che mi ha comunicato grande serenità. Cioè è stato lui in realtà a trattenere e contenere un po' invece la mia reazione di sgomento iniziale, perché per noi non era una gravidanza, diciamo, soprattutto la prima non è stata cercata, quindi... capitava all'interno di una convivenza, e quindi insomma diciamo che da quel momento la vita sarebbe stata completamente diversa, e la sua serenità e quello che mi ha comunicato è stato proprio il sentirmi in famiglia, che sarebbe iniziata una nuova avventura. Una culla, bello. Yolanda, Allora, per me è stato un momento un pochino più, diciamo, difficile, forse un pochino meno romantico rispetto alle esperienze che ho appena sentito, perché per me Marco è stata un po' una bomba che è esplosa nella nostra vita, una cosa sicuramente meravigliosa, però all'inizio ci ha lasciato un pochino... Non eravate preparati? No, non eravamo preparati, non è stata una cosa programmata, noi ci conosciamo... da poco più di un anno, siamo innamoratissimi, felici e tutto, però forse avremmo voluto aspettare un pochino. Invece lei ha deciso, stanno bene, è arrivato il mio momento, vado giù. Infatti, guarda, io penso che sia stato proprio un dono alla fine del Signore, sono molto credente, quindi credo che sia stato veramente un regalo che Dio ci ha voluto fare, perché poi alla fine adesso noi siamo felicissimi, siamo in trepidazione, non vediamo l'ora di abbracciare il nostro angioletto, però ti posso assicurare che all'inizio... Sono stati dei momenti un po' duri, un po' difficili, ecco. Sì, quindi anche Marco, il mio compagno, all'inizio non ha reagito benissimo, eravamo tutti e due molto spaventati, ci è voluto un pochino più di tempo per metabolizzare la notizia, insomma. Intanto arrivano numerosi messaggi, noi per ambedue i figli abbiamo fatto il test insieme, le ecografie insieme, un'altra ascoltatrice mi ha scritto che ha lasciato tanti biglietti in casa come una sorta di caccia al tesoro, un'altra ascoltatrice, Elena, invece ci scrive: mio marito per 9 mesi mi ha rifiutata dicendo che il pancione gli faceva un po' impressione. Abbiamo intitolato questa puntata 9 mesi che cambiano la vita. Infatti sono molti cambiamenti che si verificano nel nostro corpo. Alessandra qua ha una pancia magnifica, però anche nella nostra mente, nelle relazioni, nel nostro quotidiano, nella vita di coppia. Insomma, io vorrei, provate a raccontarci, ci vorrebbero intere puntate da dedicare a ognuna di noi, voi, ma un po' il tipo di cambiamento, quello che avete vissuto meglio, anche quello per il quale magari non eravate così preparate. Vi siete trovate diverse, come e che cosa vi ha sorpreso, in positivo e in negativo? Alessandra. Forse non sicuramente in positivo il fisico, perché la trasformazione, soprattutto nel mio secondo caso, quello attuale, è evidente perlomeno ai miei occhi, per cui al di là della pancia, insomma, è chiaro che il corpo si modifica e si fa forse un po' più fatica ad accettarsi, non ci si ritrova in un corpo diverso da quello che si è sempre avuto, e quindi quello è forse un po' lo scoglio più difficile da superare. Poi è chiaro che si leggono articoli, ci si proietta in un futuro in cui si ritornerà come ci si è sempre viste, quindi insomma almeno psicologicamente su di me non ha un impatto così devastante. È chiaro che vedersi diverse e così bisogna diverse, un po' abituarsi, sì, insomma. E invece come relazione, carattere, gioia, malinconia, un po' di paure, qualche insicurezza, magari invece un senso di responsabilità. Poi tu sei sotto pressione perché hai una piccinina, indubitabilmente, di 11 mesi, no? Devo dire che forse conta molto il carattere. Io sono tra il novero delle fortunate che non ha patito nel postparto precedente e fino ad oggi nessun tipo di malinconia. Quindi diamo fino adesso, insomma, fino direi adesso. Coi fiocchi. Andiamo invece a Valeria. Cosa ci racconti, Valeria? Dunque, io riguardo al fisico, devo dire, il cambiamento mi ha molto incuriosito, perché era proprio un'esperienza nuova e per certi versi prescinde, almeno la sensazione che ho avuto io, che in qualche modo si diventasse una cosa a sé, no? Il fisico prende una sua dimensione, mi sentivo più, diciamo, una cicogna che una donna, o comunque insomma, però in qualche modo è divertente, perché è divertente pure vedere poi il compagno come reagisce, per fortuna ha reagito bene, quindi... come reagisce bene alla pancia. Poi tu ci avevi già anticipato che il tuo compagno ti ha dato proprio questa idea di grande sicurezza, insomma, sì, ti esatto. Senti... E quindi insomma anche rispetto a quello, devo dire, mi ha valorizzato anche un fisico in cambiamento, e quindi mi ha aiutato, come dire, a riconoscermi in un corpo nuovo, diverso e nuovo. A me piace così tanto, devo dire, la pancia, io la trovo una cosa magnifica, proprio la trovo bella. Non so se la professoressa Cettin e la dottoressa Sacca concordano, la professoressa Cettin di pancia ne vede tantissime. Sono belle, in generale sono belle, sì. Poi ci sono persone che magari fanno più fatica, per esempio se hanno una gravidanza gemellare a volte la pancia diventa veramente tanta e si fa fatica verso la fine, però in genere per la maggior parte delle donne è un'esperienza positiva. A volte certe persone, come sicuramente potrà dire meglio di me la dottoressa Saccano, più problemi ad accettarsi. Dottoressa Sacca, la pancia ad alcuni piace, ad alcuni genera un po' di, insomma, fanno un po' fatica ad accertarla. Piace. Questo è un po', si declina un po' nelle donne, un po' negli uomini. Ci sono uomini che dalla pancia sono attratti, no? La pancia richiama ad un sentimento di protezione, di accudimento, altri invece prendono un po' le distanze. Insomma, la mamma, la compagna, la moglie che diventa mamma può creare dei problemi perché comunque l'aspetto visibile del fatto che le cose stanno cambiando. Continuate a sentir parlare qui di cambiamento, posso umilmente dire che i cambiamenti possono anche essere molto positivi, certo. Nel senso che qui sicuramente il cambiamento c'è, in particolare per quanto riguarda la prima gravidanza, però è un cambiamento che può portare, se ben vissuto, a una situazione veramente di grande positività. La pancia per la donna è un discorso di stravolgimento della propria immagine di sé, no? Non siamo più la stessa persona che eravamo prima. Però secondo me, esattamente come succedeva un tempo, no? Che si viveva molto più fatalisticamente questo discorso della gravidanza, per cui si sapeva che poi passava, secondo me questo discorso sta cominciando a passare anche per le donne di oggi, nel senso che si preparano in anticipo, hanno molta cura di sé durante la gravidanza. E quindi insomma, sono proprio le mamme di oggi sono più informate, preparate, forse consapevoli. E io volevo andare anche da Yolanda. Yolanda, tu effettivamente puoi fare un bilancio, perché se non nasce oggi potrebbe nascere domani. Certo. Ecco, facciamo un bilancio che poi... Guarda, io posso dire una cosa, già veramente una cosa che ho imparato da questa esperienza è questa, cioè io ho sempre pensato, sempre desiderato avere un bambino, fin da quando ero ragazzina ho avuto questo mito, questo sogno, questa favola della gravidanza. Adesso che ho vissuto in prima persona questa esperienza, forse ho capito una cosa, che non è proprio quella favola, quell'esperienza idilliaca che pensavo che fosse. È comunque un momento molto difficile nella vita di una donna, proprio perché, appunto, come si è detto, il corpo cambia. Io come donna mi sono sentita ad un certo punto a disagio, quasi estranea al mio corpo, ti si guarda allo specchio e non ci si riconosce più. Io sono sempre stata di conformazione molto magra, sono sempre stata una sportiva, una abituata a fare tanta attività fisica, movimento, ginnastica, eccetera. Quindi dover rinunciare a questo ti è pesato mesi, un po'. Mi è pesato parecchio, da un punto di vista psicologico è stato un momento difficile comunque da affrontare, perché diciamo forse una donna deve un po' rinunciare alla propria vanità femminile, e sappiamo che per noi donne è un pochino a volte difficile riuscire a fare questa scelta, poi ovviamente ne vale la pena perché sì, certo. Il frutto... Tra l'altro Yolanda, scusa, tu sei medico, la cosa, ecco, l'essere medico ti ha aiutato, ti ha tolto qualche paura, evitato qualche timore oppure... Allora, potrebbe sembrare di sì, però in realtà non è propriamente così, perché molto spesso quando si parla con colleghi, col mio ginecologo, con altre persone con cui ho avuto a che fare, queste persone danno molto per scontato, perché pensano appunto di parlare con un medico e quindi che certe cose si sappiano. Però quando si vive in prima persona un'esperienza del genere è diverso, cioè non si riesce ad affrontare la cosa con quell'obiettività, con quel quindi distacco. Essere dall'altra parte della barricata è un po' diverso. È diverso. Io ringrazio le mie mamme, ringrazio Valeria, ringrazio Yolanda. Se ti vuoi fermare qua, noi siamo contente. Grazie. Alessandra. Allora, tanto che vi saluto, ci ricordate i nomi di questi piccini? Che ormai siamo qua, abbiamo talmente parlato di loro che ci sentiamo quasi un po' zii. Valeria, come si chiamerà? La mia bambina si chiamerà Giorgia. E invece Yolanda? Il mio bambino si chiamerà Francesco. Allora, auguri a Yolanda, Valeria, ai loro bambini, ai loro mariti. Teneteci informati, così mettiamo il fiocco rosa, il fiocco azzurro, almeno nel nostro sito, per ricordare quando siete venuti a trovarci, che sono nati dei nuovi amici. Grazie alle mamme. Grazie a voi, grazie mille, buongiorno. Invece una mamma in carne e ossa ce l'abbiamo qui, però volevo chiedere alla professoressa Cettine, alla dottoressa Sacca, di tirare un po' le fila di questo discorso, di aiutarci a trovare un fil rouge. Abbiamo sentito tre momenti diversi, tre donne diverse, tre momenti diversi della gravidanza, tre modi un po' diversi di vivere e concepire questi 9 mesi, ma sicuramente ci sono in ogni trimestre delle caratteristiche, lasciatemele dire, comuni, sia a livello di cambiamento del corpo e la salute della donna che a livello mentale. Proviamo a iniziare a ripercorrerle. Professoressa Cettin, siamo al primo trimestre di gravidanza, cosa succede? Ma allora, sicuramente una delle prime cose che la donna sente è proprio quasi praticamente contemporaneo col test di gravidanza positivo, c'è subito una sensazione di aumento del seno, di tensione al seno, questa è veramente molto immediata. Sì. E anche abbastanza contemporaneamente, anche se a volte non lo si lega alla gravidanza, a volte è molto evidente, c'è proprio un aumento della cioè la voglia di dormire di più alla sì. sera, proprio questo bisogno di dormire, di riposarsi. Ci sono anche invece delle sensazioni un po' meno piacevoli, un po' più sgradevoli, come la nausea, che non hanno tutte le donne, però in alcune donne può diventare veramente molto importante. Ci sono anche a volte situazioni che portano addirittura, quando è molto molto grave, a un ricovero, se non ci si riesce ad alimentare, se c'è proprio quella situazione che viene chiamata iperemesi gravidica, per cui oltre alla nausea c'è certo. il vomito, la professoressa peso. Cettin, sì. In questi primi, quando una donna scopre di aspettare un bambino, che cosa deve fare? Ma deve oltre che a comunicarlo, ecco, oltre che a comunicarlo al padre, naturalmente, sì, ma ecco. No, deve, allora, quello che deve fare fin da subito è cominciare a stare attenta ad avere delle attenzioni maggiori al modo di vivere, cioè quelle attenzioni che uno dovrebbe avere comunque, sì. che però magari quando non si è gravide non hanno delle conseguenze così sì. immediate, quindi riposarsi di più, stare attenta a non saltare i pasti e avere un po' di una vita con più regolata. Una vita più regolata, questo nel primo trimestre. Parleremo anche che cosa succede nella mente di una donna quando scopre di aspettare un bambino, l'umore magari varia. Alessandra, te com'è andata? Abbastanza bene. Sì, direi. Io ho già degli ascoltatori in linea, ho la dottoressa Sacca, volevo salutare Francesco da Milano. Buongiorno Francesco, noi ci sentiamo dopo. Va bene. Siamo tornati insieme, parliamo di gravidanza, un'esperienza unica, sempre diversa, che lascia il segno. In linea con noi abbiamo la professoressa Cettin, primaria del reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco, l'Università di Milano, la dottoressa Sacca, psicoterapeuta e sessuologa, in studio una mamma, Alessandra, seconda gravidanza, quinto mese di gravidanza, giusto? Sì. Con una piccina a casa di 11 mesi, quindi due gravidanze molto vicine. Dottoressa Sacca, prima di andare a capire quali emozioni, sentimenti, timori e paure si agitano nel cuore e nella mente della mamma, andiamo a dare a salutare Francesco da Milano e poi sentiamo Paolo da Trento. Francesco, sì. buongiorno. Sì, buongiorno, scusate, sono in mezzo alla strada, c'è un po' di traffico. Venga con noi nel nostro gineceo, si accomodi, ci racconti. Eccomi qua. No, beh, niente, allora, a parte che adesso c'ha la bimba, c'ha ormai 2 anni, quindi sarebbe la seconda gravidanza, ma è stata particolare perché la mia compagna, essendo magra, e quindi ha fatto una bellissima gravidanza, perché comunque ci ha sempre tenuto il suo aspetto fisico, quindi non sì. è ingrassata, anzi devo dire che durante la gravidanza, sotto certi punti di vista, noi maschietti insomma sono cresciute certe cose, quindi noi c'è più lei è diventata più formosa, esatto, però c'è stato un momento in cui siamo andati a comprare un vestito, quelli classici da Premaman. E allora lei si guardava allo specchio e diceva: ah, sono ingrassata, sono ingrassata, sono ingrassata. E Francesco, lei come ha fatto per farla sentire bella? Beh, io ho sempre le attenzioni, Francesco. Assolutamente, bravo. Anche perché non è cambiato assolutamente nulla, perché ricordiamoci che la gravidanza non è una malattia. Cioè, caspita. Grazie Francesco, quindi un papà che ha accompagnato la sua compagna, la mamma del suo bambino, facendola sentire bene e bella. Paolo da Trento, come si è comportato lei quando era incinto? Ma io certamente è un'esperienza che prende anche il partner, questo sicuramente. Ecco, ed Allora, la cosa più bella è che quel giorno lei mi disse, sono incinta, ma dai, bene, bene, sono contento, e così. E poi mi disse, allora ne ho due, come due, giorni di malattia? Pensavo che... E invece lei dice, no, sono due gemelli, noi abbiamo sempre pensato ai gemelli, sì. In realtà poi erano due bellissime bambine. E così, e da quel giorno, non so, io mi sono sentito trasformato. Io penso di aver amato molto, molto di più mia moglie, perché così ci sentivamo in tanti. È vero. Paolo, che bello. Vedo Alessandra qua che proprio la seguiva commossa. Grazie Paolo. Grazie. E un bacio alle due gemelle, a sua moglie. Dottoressa Sacca. Vorrei un commento anche a queste telefonate, i racconti delle nostre mamme. La dottoressa, la professoressa Cettin ci ha raccontato un po' come si trasforma la donna nel primo trimestre di gravidanza, e lei dal suo osservatorio, dal canto suo, cosa dice? Ma direi che a seconda, naturalmente cambia il discorso a seconda che il figlio sia stato cercato, desiderato oppure no. Ecco, in linea di massima, se non ci sono grossi problemi fisici come quelli a cui accennava la professoressa, tipo l'iperemesi, così, il primo trimestre è veramente il trimestre in cui si cristallizza dentro di noi la costruzione che faremo poi del nostro bambino. Nel senso che è lì che cominciamo a pensare che questo bambino arriverà. Noi non siamo ancora cambiate, ma il bambino sappiamo che c'è, quindi è una fase di equilibrio che dura un po' di tempo e che ci permette di cominciare a sognare, di cominciare a crearci delle immagini sul bambino. Naturalmente tutto questo se non si sta particolarmente male, perché però anche lo stare particolarmente male, io mi auguro che la professoressa sia d'accordo con me, a volte queste iperemesi sono proprio la manifestazione psicologica, non dico di un rifiuto, ma di una difficoltà ad accettare quello che sta capitando, una paura anticipata di non essere in grado di... Professoressa Cettin, cosa dice? Assolutamente d'accordo. A volte, anzi, quello che è stato proprio visto dal punto di vista epidemiologico, che è molto più frequente nelle donne che appunto hanno magari una situazione familiare non consolidata, o magari delle donne straniere che sono qui da sole, che hanno meno sostegno a casa, è molto più facile che succeda in persone così. Poi a volte succede anche invece a persone che non hanno nessun problema, però spesso è accentuata anche da queste condizioni predisponenti. Alessandra, tu hai avuto nausea? No, no. Devo dire, tutto bene. Ho avuto altri problemi, ma la nausea mi è... Sentiamo Anna da Prato, buongiorno Anna. Sì, buongiorno, scusate. E niente, la mia esperienza è un po' diversa da quella che avete mandato in onda fino adesso. Io ero... Aggiungiamo volentieri anche la sua, Anna, perché sì, tra le mamme poi ogni gravidanza è diversa, anche per la stessa donna. Alessandra mi diceva, io anche ho notato delle grandi differenze tra la prima e la seconda. Anna, lei che mamma è? Allora, io attualmente sono mamma di 5 bambini. E ero già mamma di 3 e quindi ormai pensavo di aver finito la mia carriera, sì. E invece sono rimasta, mi è stato interessante, vabbè, abbiamo detto accettiamo anche il quarto. E certo. Ero in ospedale perché diciamo ho un decorso un po' problematico, sono incinta e mi fanno l'ecografia e vedono e sono 2. Quindi la cosa... Ecco, anziché mettermi sgomento, io ho cominciato a ridere, perché prima ho detto non è possibile, perché non ce ne sono altre gemelle. E poi è stata una cosa che mi ha talmente emozionata, mi ha fatto come trovarmi alla prima gravidanza, perché era talmente una novità che mi prendeva, che io sono tornata in camera ridendo, cioè proprio allegra come una Pasqua, da sola. Anna. E poi ho fatto la sorpresa alla famiglia, ho detto venite tutti. Allora sono andata a comprare una scatola di cioccolatini, mi avevano fatto la fotografia dell'ecografia, gliel'ho messa dentro, sì. E quando sono arrivati loro, quando erano aperte, è stata un'esplosione, perché i bambini erano felicissimi. E lo credo, 2, quindi... li potevano dividere. No, e quindi... Bello, ora, Anna, che bella famiglia, che bella famiglia, che bella storia che ci ha regalato Anna. Un abbraccio, grazie. arrivederci. Allora, io volevo chiedere alle nostre due esperte di intanto iniziare a dare qualche consiglio alle mamme in attesa, così rispondiamo un po' ad alcuni messaggi. Professoressa Cettin, non si deve mangiare per due, ormai l'abbiamo capito, come consigliavano un tempo le nostre nonne, mangia, mangia, e poi si diventava un po' dei palloni, delle mongolfiere, ma si deve mangiare bene. Qualche regola? Così anche Alessandra vede se mangia bene. Si deve avere un'alimentazione, come dicevamo prima, regolata. E quindi una cosa molto importante è proprio l'abitudine alimentare, per cui in generale non saltare i pasti, anzi a volte è necessario, anche proprio molte donne sentono questo bisogno, fare degli spuntini a metà mattina o a metà pomeriggio, perché in gravidanza c'è una tendenza alla sensazione di fame prima, sì. C'è proprio un'ipoglicemia che è nota, legata agli ormoni che vengono prodotti, quindi il digiuno in gravidanza non va assolutamente bene, anche proprio dei piccoli pasti ma più ravvicinati. Senta, professoressa Cettin, volevo chiederle se può dare una mano ad Alessandra, che prima di andare in onda, secondo noi in redazione, che l'abbiamo accolta in redazione, hanno detto tutti che fisico, la pancia eccetera, invece lei dice ingrasso no, è molto di più rispetto all'altra gravidanza, come mai? Nella seconda più che nella prima, non so se per il motivo, perché siano così ravvicinate o in realtà quello che noto è che pur mangiando forse meno che durante la prima gravidanza, ingrasso di più, soprattutto sono più gonfia, per cui se c'è qualche consiglio da seguire. Professoressa Cettin, come mai? Allora, prima di tutto in gravidanza vengono prodotti degli ormoni che fanno proprio aumentare l'appetito nella donna, quindi questo può essere chiaramente un po' diverso in questa gravidanza rispetto alla prima, però bisogna anche dire che se si sente gonfia, non sempre, l'aumento di peso è giusto, è normale, è fisiologico, fino anche a 15 kg in tutta la gravidanza, quindi non è che siamo tenute a non aumentare di peso in gravidanza, anzi bisogna aumentare da un minimo di 7 fino al massimo di 15 kg, questa è il consiglio che viene dato. Se però c'è una sensazione di sentirsi gonfia, è chiaro che è possibile che ci sia anche questo, non dico che sia il caso chiaramente necessariamente di Alessandra, però è possibile che ci siano dei problemi, che ci sia un po' di ritenzione idrica e quindi questo poi va valutato. Normalmente non si deve aumentare, cioè se si aumenta più di 3 kg in un mese, allora questo è una grazie, una cosa per che questa indicazione. Quanto state aumentando, quanti chili? Dottoressa Sacca, prima di andare alle informazioni sul traffico, ci sono dei messaggi che fanno riferimento alla depressione postpartum e molti di questi invitano allora a dare consigli, perché la tesi è questa: se una donna vive bene i 9 mesi, allora vive questa esperienza emotivamente coccolata e fortificata, è più difficile che ceda poi in un periodo depressivo dopo la gravidanza. Lei come la vede? Quali consigli può dare? Proprio dei consigli flash, le cose da fare o da non fare. Il flash è non stare da soli. Non stare da sole, cercare di non vivere questo momento meraviglioso della propria vita in solitudine, cercare appoggi, cercare confronti. E penso per esempio che il fatto di fare i corsi di preparazione al parto sia utile soprattutto in questo senso qui, nel senso che ci si può confrontare con altre donne. Secondariamente, non temere la propria incapacità. Sicuramente nei confronti del primo figlio noi saremo abbastanza incapaci, lo siamo stati tutti la prima volta, nessuno nasce imparato, come dicono a Napoli, quindi dovremo imparare, impareremo insieme al bambino, insieme al nostro compagno, non voler essere delle madri perfette. I genitori perfetti non esistono. Per fortuna, perché le piccole imperfezioni ci rendono umani e ci rendono capaci poi di migliorarci costantemente. Ecco, siamo tornati e saluto la signora Margherita Locatelli, ostetrica, buongiorno. A tutti quanti. Signora, l'ostetrica lavora a fianco del ginecologo e può seguire in autonomia le gravidanze a basso rischio. Ma generalmente noi, pensando all'ostetrica, pensiamo alla sala parto, ai corsi parto, ma credo che ci sia qualcosa anche in più da sapere, un po' per capire esattamente i compiti e le competenze di questa figura professionale. Che cosa fa l'ostetrica? Ha detto bene, compiti e competenze. In effetti l'ostetrica, proprio per legge, è la professionista competente ad assistere la donna nella gravidanza. questo in Italia è molto poco conosciuto, ma ci sono esperienze crescenti, fortunatamente, in cui l'ostetrica segue proprio la donna fin dall'inizio della sua gravidanza. E nel caso, appunto, comunque è una figura che lavora a stretto contatto, a braccetto col ginecologo. Noi... La legge stabilisce proprio la sua autonomia, quindi non ha una necessità immediata di avere il ginecologo a fianco, ma questa importante competenza di riconoscere quando è necessario l'intervento. Certo. E a questo punto si lavora proprio a stretto contatto, nel senso che non lascia la donna al ginecologo, ma l'accompagna in concomitanza. E diventa un po' un'amica, un sostegno, una... Alessandra, per la tua esperienza l'ostetrica... È stata fondamentale. Cosa ti ricordi della tua ostetrica, di una cosa che ti ha fatto bene? Il coraggio e la forza che è riuscita a trasmettermi. Perché siete dolci, ma allo stesso tempo, io mi ricordo l'ostetrica con cui ho partorito, era abbastanza su, intanto forte. Allora, signora Locatelli, qual è il momento migliore per fare amicizia con l'ostetrica? Ma come diceva prima, dal momento in cui una conosce di essere gravida, il test positivo, dopo averlo detto al marito, può essere benissimo che contatti l'ostetrica. Magari è proprio l'ostetrica che conosceva già presso la struttura consultoriale, dove per esempio poteva accedere a fare pap test, può essere sempre la stessa persona. Ma può trovarla tranquillamente presso le strutture pubbliche, le strutture private, oppure in regime di libera professione. Ma non c'è il momento, proprio fin dall'inizio della gravidanza, ha proprio la competenza. Senta, mi tolgo una curiosità: quanti bambini avrà visto nascere lei? In quanti anni di attività? Ho perso il conto, non saprei rispondere a questa domanda, però ogni volta è un'esperienza unica. Lo credo. La cosa emozionante è il poter stare a fianco delle mamme in questo momento, e l'ostetrica ci sta sia come amica, come forza, ma proprio con la sua professionalità. Quindi non è semplicemente uno stare a fianco piacevole. Sì, ma è certo, una figura professionale che lavora a fianco, che lavora per la donna, a fianco col ginecologo, insomma è un team. Grazie signora Locatelli. Sì, grazie a voi. È nato qualche bambino oggi? Guardi, in sala parto abbiamo già dei numeri elevatissimi. Qui siamo allora la lascio. Grazie, grazie mille. Abbiamo Laura dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Laura, benvenuta. Allora. Grazie. In attesa? Già mamma? Già mamma di una bimba di 13 giorni. Piccolissima! Come si chiama? Eliana. Come sta, Laura? Benissimo. State bene? Benissimo, la bimba anche. Bene. Come si sente? Al settimo cielo? Di più. Sì, infatti io ho chiamato apposta per raccontare la mia esperienza, che è iniziata in modo un po' diverso da quelle raccontate fino adesso. Noi abbiamo cercato per vari anni questa bimba che non voleva arrivare, finché avevamo cominciato a non crederci più. E infatti quando abbiamo avuto il vago sospetto che effettivamente ci fosse questa gravidanza, abbiamo avuto un po' paura, sia io sia mio marito, a fare il test, perché temevamo della delusione. Però mi è stato molto vicino ed è stata una gioia che vi potete immaginare. Ah sì, e Laura è stata molto carina a raccontarcela. Bello, con questa bambina. L'ha allatta lei? Sì, infatti adesso sta mangiando. Allora tanti auguri. Grazie. Grazie Laura. Professoressa Cettin, dottoressa Sacca, un consiglio ancora alle mamme in ascolto e a quelle che hanno appena partorito. Professoressa Cettin. Un consiglio, ma sicuramente quello di cercare di vivere la gravidanza serenamente. L'eccesso di fatica e di stress, il lavoro eccessivo è stato dimostrato proprio che possono peggiorare un pochino. Ecco, Alessandra lavora, so che lavora, va a allattare la bambina, torna, eccetera, quindi mi raccomando Alessandra. Sì. E dottoressa Sacca? Io direi godetevi questo momento. È vero. Godetevelo veramente, perché sarà uno dei momenti più belli della vostra vita, nel ricordo soprattutto, se volete, però anche nel frattempo. Quindi mettetecela tutta veramente per viverlo intensamente e pienamente, perché è uno dei momenti veramente meravigliosi. Parto compreso, assolutamente. È vero. Io sono una fautrice del parto naturale appena si può, perché è un'esperienza così viscerale, così profonda nonostante possa sembrare contraddittorio, di così grossa unione con il proprio bambino, che è un'esperienza che vale la pena di essere fatta. Converrebbe, e i medici lo suggeriscono, le ostetriche anche, seguire un corso di preparazione al parto. Ne voglio parlare con Valeria Covini, che è direttore di Insieme. Ciao Valeria. Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Devo dire ciao direttore. Madonna, perché no. I direttori si chiamano ciao direttore. Senti, ciao direttore, parliamo di corsi preparto. Io ho letto sul vostro numero che ci sono anche corsi preparto in acqua. Sì, certo. Non sono mode queste, sono modi. Modi. Modi e non mode, cioè modi, perché oggi le mamme più di ieri hanno poco tempo, si ritagliano poco tempo perché preferiscono poi usare il tempo che gli concede il congedo dopo, alla nascita. E quindi penalizzano un po' questo aspetto della preparazione, anche un po' per allontanare quel momento e vivere magari più pienamente i mesi di gravidanza. E allora bisogna trovare un modo diverso e anche proprio per costruire un po' questo rapporto e prepararsi. Quindi è cambiata il corso di preparazione, è un po' l'idea, il concetto del corso di preparazione è cambiato, perché non si vanno a visitare i luoghi del parto, ma si vuole cercare dentro di sé. Certo. Esplorare un po' le proprie emozioni. L'acqua, per esempio, come abbiamo così scritto su Insieme di febbraio, è un elemento che aiuta, che fa entrare in contatto con l'altra acqua che abbiamo dentro, nella quale il nostro Alessandra bambino... tu lo sa... scusa direttore, ti ho interrotto perché siamo in chiusura praticamente. Certo. Volevo sapere se Alessandra tu lo sapevi di questi corsi in acqua. Vedi che c'è sempre da imparare. Allora, io devo salutarvi, continuerei a parlare di pancia, di cose belle da raccontare, continuerei a dare voce ai vostri racconti. Ringrazio la mamma che è rimasta con noi. Grazie, e che seguiremo e invitiamo a venire a trovarci, la professoressa Cettin, che ci ha tranquillizzato. Professoressa, grazie. Arrivederci, grazie a voi. La dottoressa Sacca, che ci ha guidato. Arrivederci. Valeria Covini, direttore di Insieme, che ci ha dato un modo, giusto? Uno dei tanti, e un articolo che appare anche sul numero di Insieme, che è sempre una guida per le mamme. Da te, da quanti anni, Valeria? Fra poco compiamo i 30 anni, ma ecco, ormai magari faremo una bella cosa insieme. Ma volentieri. Un abbraccio alle mamme di ieri, di oggi e di domani. Io vi aspetto comunque domani dopo il GR delle 11. Buona pancia a tutti.